quanto alle tre crisi che stiamo vivendo, cioè quella ambientale, quella energetica e quella finanziaria che si è poi scatenata contro l'economia, non c'è dubbio che siamo di fronte a una quarta crisi, della crisi del rapporto tra la pubblicità e i mass media. A farne le spese sono soprattutto i quotidiani, ma tutto il comparto della pubblicità soffre moltissimo. Da poco meno di 8 miliardi e mezzo di euro si prevede che la pubblicità sia scesa sotto i 7 miliardi. Questo ha scatenato grossi problemi all'interno di tutto il mondo dei media e determina perdita di posti di lavoro sia nel giornalismo sia nella pubblicità. È probabile che il consumatore non sia più individuabile come lo fosse tempo fa, perché si raggiunge sempre con molta difficoltà rispetto ai nuovi assetti dei media. Si dice che molti giornali chiuderanno e che molte cose evidentemente cambieranno. In questo la creatività pubblicitaria ovviamente soffre moltissimo. Un convegno del mondo della pubblicità tenuto a Roma la scorsa settimana ha visto un grande assente, appunto, coloro i quali fanno i messaggi pubblicitari. Il futuro prevederà, secondo gli esperti, una sempre maggiore integrazione e convergenza di mezzi di comunicazione di massa, anche perché così è più facile per gli investitori pubblicitari raggiungere vari pubblici. Rimane il fatto che le quattro crisi a questo punto, ambientale, energetica, economica e dunque anche quella dell'informazione, hanno messo in crisi il modello consumistico che ha visto la crescita logaritmica delle nostre economie negli ultimi 20 anni. Forse è proprio dalla valutazione di questa crisi dei consumi che si potrà capire come sarà il futuro dell'informazione e dei messaggi pubblicitari.